panache questo no, babà. Ah, tu sei di Scia di due. Ah, ottimo. Perfetto. Benissimo. Ok. Benissimo. Riprendiamo. Vieni. Fare in modo che precisamente delle immagini, abbiamo parlato di Antonio, siciliano, 58 anni, che vedremo delle immagini di tre cose. Uno, le relazioni con gli altri. Due, gli oggetti della sua casa, con questo ci inseriamo quello che ha detto Francesca. Francesca vi ha detto che i bambini a volte disegnano degli oggetti della casa particolari, che aveva parlato del bottom frame, dei comignoli e dei vasi di fiori. Ecco, anche questa persona che abbiamo visto disegna spesso delle case, e tra l'altro con i padroni di casa che sono dei barattinai immobiliari che lasciano andare a rotto una casa senza fare delle manutenzioni per scopi di profitto, quindi vedremo dei volti, delle persone, degli oggetti delle case, molto velocemente. Allora questo, se riesce a togliere, è lui. Questo è lui e sua moglie. Se vi ricordate del suo libro immaginativo, lui si crede di essere il figlio di, uno dei più grandi di Cuccia, che è il direttore generale di Emilia Banca. Per cui lui pensa di essere il figlio di un grosso banchiere. E si ritrae sempre, molto elegante, molto. Questi disegni sono fatti di getto. Quindi lui in mente, vedi, arriva, disegna e rappresenta. Quindi lui è disegnato tra l'altro sempre con il taschino, molto elegante, perché lui pensa anche di aver lavorato sempre in istituzioni finanziarie molto importanti e di aver gestito in prima persona i patrimoni immobiliari delle banche. Quella di fianco è sua moglie da cui è separato. Sua moglie, che mi ha visto l'altra volta, aveva conosciuto nel momento in cui lei gli aveva piegato il suo portafoglio, ed era stato un colpo di fulmine. Dopodiché lui, siciliano, gelosissimo verso sua moglie, per cui quando andava al supermercato questionava il cassiere o con il commesso perché guardava la sua moglie, ovviamente geloso, si faceva determinate fantasie, e un giorno la moglie ha trovato le sue mani al collo. Allora ha denunciato questa cosa, lui è stato portato in una struttura psichiatrica protetta e dove finalmente gli avevano trovato un'assegnazione in una casa popolare dopo che si era diviso dalla moglie. In questa casa popolare, che sembrava il sogno perché lui costruisce, disegnava sempre case, oggetti, cioè reti della casa, tenta il suicidio e qua ci riesce, perché si trova, noi diciamo, con una rete sociale, lui che ha dei problemi, che non lo accoglie in pratica, nel senso che la struttura ha trovato, ha lavorato abbastanza bene, perché l'ha portato da via una casa, però in questa situazione lui si è completamente sbagliato, non ha più trovato i riferimenti e probabilmente non attualmente vive in una comunità protetta. Allora questo è lui e sua moglie, tra l'altro lui è innamoratissimo di sua moglie, da cui è divorziato, vediamo l'altra. Quindi sono persone, sono oggetti. Ecco, tra gli oggetti della casa mi mette, scusate la qualità dell'immagine, ma avevo perso il file. Comunque qui abbiamo dei bicchieri, mensola di cucina, delle cose inerenti al cibo. Poi abbiamo degli elettrodomestici, quindi le cose che servono per mangiare, una serie di elettrodomestici che gli colpiscono la fantasia. Ecco questo appartamento, lui ha fatto la quinta elementare, appartamento di mia mamma, quindi in una casa la cosa che lo colpisce. Oh, scusate, c'è un ciò che gli era la X. E la X lo chiude. Facciamo così, lo vedete. Ok, sì, tanto. ci sono i vasi di fiori, cioè c'è la cucina, c'è lo scaldabagno, c'è la lampadina, c'è il frigorifero e c'è una specie di armadio per i vestiti. Ok, andiamo in un altro. Ecco, qui abbiamo un bollitore, una teiera, ma guardate quanta passione ci ha messo nel disegnare questo oggetto della casa, che per lui è importante perché vuol dire anche accogliere le persone. Come ha fatto questa teiera con tutti questi disegni, col piattino, con tutto l'oggetto, cioè senza poi cancellarlo. È andata avanti, vediamo un'altra. Ecco, questa è una serie di persone, no? Il suo mondo di relazioni che ha, ci sono le donne, ci sono gli uomini sono tutti, sembrano dei professionisti eleganti, col taschino, con la cravatta, le donne anche quelle sempre molto vestite bene, abbindate, tra cui, vediamo quella dopo, ecco, questo è un altro particolare in cui è disegnato da una parte un grattacielo, tipo la Torre Gaffa, e dall'altra parte una bellissima pianta. Le piante è una cosa che si le mette dappertutto ed è fantastico vedere come c'è questo questa pianta mandala, le foglie qua, no? Un altro. Ecco, questo è lui, suo figlio e sua moglie. Anche sempre questo con, tra l'altro, con i denti, lui disegna spesso i denti, che indica un po' la rabbia che ha verso questa situazione. Mentre la moglie è più gentile, il figlio un po' sbalordito. Vediamo un'altra. Questa invece è un'altra casa, lui ci mette sempre le piantine di fiori, tipo l'ingresso di Viale Molise, dove ci sono tutte le piantine di fiori. Prima la c'era la Torre Gaffa, adesso c'è l'ex macello, poi vediamo, questa l'ha fatta 2 anni fa, questa è la sua casa ideale in cui c'è tanto verde, il verde per lui è la felicità, ci sono tante finestre, ha una dote progettuale notevole, andiamo avanti. Questo invece cominciano a esserci le case degradate di un quartiere popolare di Milano in cui c'è una fioca luce e ci sono quelle crepe nelle case degli edifici alti. Un altro, questo l'abbiamo visto anche l'altra volta, invece sono sempre queste strade, questi edifici, queste case che lui proprio ci ha mentalmente le disegna, poi i fiorellini, gli ingressi, i portoni, i mattoni, le nuvole. Andiamo avanti. Questo l'abbiamo visto, è il burattinaio che ha tante case, le lascia volutamente andare perché non può farle le manutenzioni e guadagnare ancora di più. L'altra, lui appunto, qua disegna, lui pensa di essere un grande finanziere che ha lavorato in banca e quindi disegna spesso questo suo mondo, grafici, torte, società quotate e quant'altri. Stiamo per finire, questa la vediamo dopo. Questo è un magnifico ritratto dedicato a sua moglie che l'ha voluta vedere come una dama dell'Ottocento. Ha scritto dama dell'Ottocento. Notate sia il cappello e sia i denti, per cui il rapporto è sempre un po' conflittuale con questa donna. Infatti quando si vedono, da un lato discutono per il divorzio, gli alimenti e quant'altro, dall'altro fanno l'amore perché c'è sempre questa enorme passione. C'ha 2 collane, 3 collane, le orecchine, una camicia, un golfino e sempre questi fiori eccezionali. Concludo con l'immagine di prima in cui mi ci tenevo a farmi rivedere questa casa di quella bambina di cui avevamo parlato l'altra volta con Francesca, che si rifaceva al mondo immaginale dei bambini, dei malati mentali, delle persone con problemi mentali diagnosticate. E questa è un'esplosione di colori. Tra l'altro questa bambina appunto vive in un campo rom, c'ha la casa fatta dal padre che potrebbe essere trasferita, cioè, spianata, però vive e il suo padre in carcere con altri 2 figli, è una situazione che ho parlato, però mi sembrava un'immagine veramente da tenere presente. Lascio la parola a Laura, la quale precisa questa cosa su situazioni dove prima di tutto una persona si trova sbalzata fuori da tutta la rete sociale, per cui il lavoro e la casa vengono a mancare, viene a mancare poi con un sostegno del pensiero a cui noi apportiamo come laboratori d'arte, ci chiediamo che cosa. Cioè noi andiamo sempre a vedere quello che noi facciamo dentro al laboratorio, poi quello che succede fuori attraverso i laboratori d'arte noi non possiamo quantificare. Certo, possiamo immaginare che in un futuro ci possa essere la prescrizione di un laboratorio di teatro 2 volte alla settimana, un laboratorio d'arte pittorica 3 pomeriggi alla settimana, per persone che cioè abbiano comunque ricevuto da queste attitudini una sicurezza in più, perché c'è senz'altro la patologia mentale, ma poi c'è tutto quello che è il disagio dovuto a essere inseriti con un'etichetta che è quella del marchio del malato. E dicevamo, aspettiamo di vedere cosa potremo produrre di elementi scientifici. Era soltanto per chiudere. senza struttura, c'è sempre una struttura. Allora aspettatemi che arrivo. Dunque, ritorniamo al nostro. Posso fare una domanda sola? Sì, ho un po' di tempo. Nella pizza era richiesta, c'era stata richiesta di portare un'immagine. Un'immagine, sì. Portare o inviare? Inviare. Ah, inviare. La prima volta abbiamo detto portare, poi abbiamo modificato inviare. Anche perché c'è una stanza che aspetta di essere allestita. Entro la seconda parte del tempo. Per cui gli daremo un'istruzione. Quindi non si inviare. Ecco, la puoi inviare poi. Perché non se ne era parlato poi di inviare. Sì, sì. No, inviare inviata, però andrà poi in un quadro particolare perché questo seminario dovrebbe anche essere un seminario dove la gente si sposta e quindi dove si fanno a varie cose. E presto per la sala nel prossimo incontro si aprirà a nuove avventure di cose fatte da voi, quindi artisti non ci sono solo le artisti da regolare, ma noi grazie. Allora, mentre scorro le nostre cose, i nostri discorsi passati, vi ricordate dove siamo arrivati?